Ancora buona domenica a tutti da Mirko Cavallin, bentrovati nel nostro appuntamento settimanale, il 35esimo dedicato al centenario di San Pio X. Un calendario, quello del centenario della morte di Papa Giuseppe Sarto, che si intensifica con questo mese di giugno, poi culminerà, lo ricordiamo, il 23 di agosto, sabato sera, con la celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Segretario di Stato Vaticano, Monsignor Pietro Parolin. Giornate ricche di appuntamenti, le prossime a iniziare proprio da domani, giornata festiva, lunedì 2 di giugno al Santuario delle Cendrole a Riese Pio X, ci sarà la giornata eucaristica della Diocesi di Treviso per tutti i ragazzi, bambini e bambine che hanno ricevuto per la prima volta nelle settimane scorse la comunione. È un'iniziativa che da alcuni anni si svolge proprio il 2 di giugno in diverse località, di solito è in seminario vescovile, quest'anno si è voluto spostarlo a Riese Pio X in maniera significativa perché, come ha ricordato il vescovo Monsignor Gianfranco Agostino Gardin nel suo messaggio inviato a tutti i ragazzi e le catechiste delle parrocchie, è significativo aver scelto Riese Pio X quest'anno per il centenario certamente, ma perché fu proprio Papa Pio X a volere che la comunione fosse data per la prima volta in età da bambini e non da adulti, perché all'epoca non era normale che i bambini facessero la comunione, anzi la si faceva da adulti e nemmeno così di frequente, nemmeno tutte le domeniche come invece sono state le indicazioni più recenti. Importante dunque riscoprire Papa Pio X, San Pio X anche sotto questo punto di vista. Domani fin dal mattino appunto l'appuntamento con la giornata eucaristica per i bambini della diocesi di Treviso. Andiamo con gli appuntamenti a Salzano, venerdì 6 giugno alle 21 alla Filanda Romanin Yacur, Pio X il parroco che è diventato Papa, un profilo a 100 anni dalla morte, con Quirino Bortolato che è collaboratore dell'archivio storico parrocchiale di Salzano e ricercatore di storia locale, particolarmente poi di Pio X. Giampaolo Romanato, docente di storia della Chiesa moderna e contemporanea all'Università di Padova, che recentemente ha pubblicato un libro proprio su Pio X, il titolo infatti Pio X alle origini del cattolicesimo contemporaneo, questo venerdì sera alle 21 alla Filanda di Salzano. Lo stesso venerdì invece nella casa di accoglienza Giuseppe Toniolo di Conegliano dalle 17 alle 19 c'è un incontro diciamo di carattere sociale, il capitale del lavoro, le trasformazioni e le culture, con Daniele Marini, docente dell'Università di Padova, Franco Lorenzon, segretario generale della CISL di Belluno e Treviso, e Gilberto Graziottin, presidente del consorzio cooperativo Intesa. La citazione che è messa a presentazione di questo evento è di Papa Francesco dall'Evangelii Gaudium: non possiamo più confidare nelle forze cieche, nella mano invisibile del mercato, la crescita in equità esige qualcosa di più della crescita economica, benché la presupponga. Al centro, alla casa di accoglienza Toniolo di Conegliano, venerdì dalle 17 alle 19, il capitale del lavoro, un convegno di studio proprio incentrato e riferito all'opera anche sociale e pastorale del lavoro di San Pio X. Lui ha conosciuto tra i primi il periodo difficile degli emigrati che dalle nostre terre, non solo dal Veneto ma da tutta Italia, partivano per andare a cercare miglior fortuna all'estero. Il 9 giugno, sarà lunedì della settimana successiva, un altro convegno, San Pio X, crisi del modello codicistico e decodificazione, all'Aula Magna dell'Università di Padova, nella sede di Treviso, in Riviera Garibaldi. Questo convegno vuole ricordare la straordinaria attività di riforma legislativa impulso per l'avvio del codice di diritto canonico proprio da parte di Papa Pio X, ed è l'Unione di Treviso che ha organizzato, con l'Ordine degli Avvocati di Treviso e l'Università di Padova, questo convegno con il professor Giorgio Feliciani della Cattolica di Milano, il professor Paolo Cappellini dell'Università di Firenze e il moderatore professor Mario Miele dell'Università di Padova. Corso gratuito e accreditato anche per i crediti formativi dell'Ordine degli Avvocati di Treviso. Andiamo poi a un appuntamento musicale che anticipiamo già per il giorno 14 di giugno, che sarà un sabato. La parrocchia di Riese ha invitato The Sun, Here Comes the Sun, il noto gruppo rock. Sono vicentini, li abbiamo avuti più volte ospiti anche dei nostri microfoni. Insieme torniamo a splendere sabato 14 giugno alle ore 21. Iniziando già dalle 14 però con le attività e workshop per giovani e giovanissimi all'oratorio, iscrizioni però purtroppo già chiuse con il 31 di maggio, dal 18 alle 21 al parco di Villa Eger, sede del municipio, musica e spettacolo e poi il concerto elettrico con The Sun ad ingresso libero. Attenzione perché a seguire a mezzanotte, finito il concerto, si accendono gli schermi perché c'è la partita dei mondiali dell'Italia. L'esordio contro l'Inghilterra a Manaus è un sabato sera, quindi si potrà andare anche a letto un po' più tardi guardando insieme la partita e tifando ovviamente per l'Italia. Tutto questo sabato 14 giugno a Riese Pio X. Un appuntamento ve lo segnalo anche a Roma, perché San Pio X poi a Roma proprio è sepolto nella Basilica di San Pietro, è nella navata sinistra, quella da cui normalmente si esce nel percorso interno. L'appuntamento è promosso dal Pontificio Comitato di Scienze Storiche per giovedì 12 nell'aula San Pio X in via della Conciliazione a Roma. San Pio X, un Papa riformatore di fronte alle sfide del nuovo secolo. Anche qui sono molti gli interventi, i docenti, si ritroverà qui il professor Giampaolo Romanato, ma anche Carlo Pioppi dell'Università Pontificia della Santa Croce, Miroslav Lenart dell'Università di Opole in Polonia, Roberto Regoli della Gregoriana e poi Patrick Valdrini della Lateranense, Luigi Michele De Palma del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Jean-Miguel Ferrer Grenesch della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Mario Sensi dell'Università Lateranense e poi ancora sarà presentato anche a Roma il testo già citato del professor Romanato, questo a Roma il 12 di giugno. Una serie di appuntamenti molto ricchi che andremo a ricordare anche nelle prossime settimane, che trovate poi più dettagliati nel sito ufficiale www.centenariopox.it.